Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Parlare della trama di un giallo è una delle cose più complicate in assoluto che ci siano, perché ovviamente non possiamo svelare troppo della trama, non possiamo svelare troppo dei personaggi. La cosa ideale quando si parla di un giallo è leggetelo o non leggetelo, ma siccome insomma qui al Cacciatore di Libri noi intervistiamo gli scrittori, qualcosa dovremo pur dire. Tra l'altro la trama di questo romanzo poliziesco giallo noir di cui vi parlo oggi è anche abbastanza complessa, quindi non è una cosa semplice da raccontare. L'autore Roberto Costantini, probabilmente avrete riconosciuto insomma il suo nome perché è famoso per la cosiddetta trilogia del male. Vi ricordo i suoi libri: Tu sei il male, il primo è stato pubblicato nel 2011, poi Alle radici del male e poi Il male non dimentica. Ora invece è in libreria con La moglie perfetta, sempre pubblicato da Marsilio. Costantini, in questo nuovo romanzo ritorna il personaggio seriale, possiamo dire così, che è quello del commissario di polizia Michele Balistreri. Però non possiamo dire che questo romanzo faccia parte della trilogia del male. Quindi che cos'è? È uno spin-off, come dicono quelli della televisione, delle serie televisive? Come si pone rispetto agli altri? Sì, è una giustissima domanda. La moglie perfetta è ambientato nel 2001, quindi si colloca più o meno a metà dei libri della trilogia. Però ha una parte finale che invece è nel 2011, che è successiva alla trilogia. È un po' questa la mia idea, di sviluppare sempre i due piani temporali, in cui c'è una parte in cui Balistreri è più giovane, quindi siamo all'interno del periodo della trilogia, e una parte finale, che è quella in cui poi normalmente si svela il nome dell'assassino, che qui non diremo ovviamente. Ma no! No! Io già mi aspettavo il nome! Anzi, ogni tanto faccio un giochino, leggo l'ultima parola di un romanzo, di un giallo, devo dire, è divertente. L'ultima parola è insieme, quindi non ci dice nulla. Beh, ci dice in realtà tanto, ci dice tanto, ma non diciamo troppo, ecco. Beh, se abbiniamo insieme al titolo La moglie perfetta, qualche idea ce la possiamo fare. Insomma, questo ci dà forse però l'occasione di parlare di che tipo di giallo è, no? Visto che, come dicevo, questo è un thriller molto psicologico. Questo è un thriller molto psicologico, assolutamente hitchcockiano nella sua costruzione, nel senso che c'è una costruzione in prima persona da parte di un personaggio che non è il personaggio principale, ma che è un personaggio da cui si capisce che ci si avvia inesorabilmente verso un disastro totale. E quindi ci consente di capire che cosa potrebbe succedere. E poi Balistreri interviene a una certa parte del libro, che normalmente è quella in cui c'è il morto. Quando ci scappa il morto arriva Michele Balistreri. Balistreri deve arrivare, naturalmente. Esatto. Una cosa che dicevi prima, appunto, fra i flashback, il passato e il presente, questa è una caratteristica dei tuoi romanzi, sì. No? Perché nella trilogia Balistreri si vedeva anche la sua gioventù passata, certo, in Libia, certo, e poi invece il suo presente da commissario, eccetera. In questo romanzo invece il tempo è un pochino più compatto, diciamo. Sono dieci anni soltanto, che non sono pochissimi. Però non si va a vedere il periodo della gioventù di Balistreri. Allora, partiamo proprio dal personaggio seriale, commissario di polizia, un po', diciamo, tipico di voi giallisti noiristi, perché è depresso, alcolizzato, gioca a poker, cos'altro fa? È un tipo solitario, arrogante. Ma perché tutti i commissari dei gialli sono fatti così? Ma normalmente credo che nell'immaginario collettivo, ma forse anche nella realtà, non sia un mestiere che porta a facilitare le relazioni sociali, no? Quello di inseguire gli assassini. Poi Balistreri è veramente un cacciatore di assassini. E il profilo personale di un cacciatore di assassini, nel caso di Balistreri, è alla fine qualcuno che è molto simile alle persone a cui lui dà la caccia. In fin dei conti, la differenza, quando insomma chi legge i miei libri poi può riscontrare facilmente che la differenza fra l'investigatore e l'assassino non è poi così grande. Perché quindi il confine è sottile alla fine. Il confine del male e del bene è sottile, perché io non credo, adesso a parte i serial killer, a parte insomma le teorie lombrosiane genetiche, io non credo a quello. Credo che poi ciascuno di noi abbia all'interno del bene e del male, poi ci sono dei bivi della vita, dei momenti, delle biforcazioni. Tutti possiamo potenzialmente diventare, uccidere. Tutti possiamo uccidere, voglio dire, se uno insomma fa caso a incidenti anche banali, due persone che litigano per un parcheggio, scendono uno dei due da un cazzo sotto all'altro, quello casca e muore, e quelli sono delle biforcazioni della vita da cui poi è difficile uscire. Ecco, Balistrieri dalla caccia ad assassini che non sono proprio dei serial killer, sono degli assassini, come posso dire, più familiari, no? più familiari, in cui il lettore sa che l'assassino sin dall'inizio è una di quelle 10 persone che vede nelle prime 30 pagine del libro, e quindi sa che lì si deve svolgere il mistero, sì. Tra l'altro l'Independent, è una cosa riportata anche sulla copertina di questo La moglie perfetta, ha definito Balistrieri come uno dei personaggi più riusciti del poliziesco moderno. Avere un complimento dagli anglosassoni, che già fanno fatica a tradurre in inglese i nostri libri, è una cosa, insomma, sì, è una cosa interessante, Il libro è stato tradotto, la trilogia è stata tradotta più o meno in tutto il mondo. E francamente mi sono un po' sorpreso degli elogi degli anglosassoni, perché poi Balistrieri, abbiamo detto alcune caratteristiche, ma ne ha altre che sono assolutamente controtendenza. Intanto è un ex attivista di Ordine Nuovo. Che, pentito, nel senso che poi è cambiato completamente. Pentito non è la parola giusta, è un ex attivista di Ordine Nuovo che, quando c'è stata la scissione di Ordine Nuovo, non ha seguito quelli che pensavano che fosse giusto ammazzare la gente. Mm-hmm. Ecco, però è rimasto di quell'idea. Le idee sono quelle. È un pentimento rispetto a quello che hanno fatto altri, ma non rispetto a quello che lui pensava. E quindi già questo, gli anglosassoni, insomma, Ordine Nuovo non è, cioè, certo, già per gli italiani, però gli anglosassoni ancora meno. Poi una cosa su cui abbiamo sorvolato è la sua attitudine verso le donne, cioè la giovinezza di Balistrieri è cosparsa di cadaveri di donne sdraiate o sul tavolo dell'obitorio o nel suo letto, e anche questa non è una caratteristica, insomma, proprio, come posso dire, politically correct. No? Quindi questo aspetto qui, però evidentemente c'è una forza nel personaggio, credo che la forza del personaggio di Balistrieri sta nel suo enorme attaccamento alla giustizia e alla lealtà, e questo è qualche cosa che, in qualche modo, quando tu leggi queste cose, senti che noi abbiamo perso un po' di quello, no? Mm-hmm. Nel nostro, insomma, conformismo, nel nostro adeguarci alle regole, alla buona educazione sociale, abbiamo perso un po' della sincerità e della lealtà che questo personaggio ha. In modo estremo, nel senso che lui è uno che vive indipendentemente dalle conseguenze delle sue azioni, perché, come dice lui è morto prima ancora di morire, e questo è un modo di vivere un po' particolare. Ora provo a fare in 20 secondi la trama di questo romanzo, quindi cercate di seguirmi con molta attenzione. Infatti me la sono segnata. 2001, una donna, Donatella, viene trovata uccisa. Circa un mese dopo viene ucciso anche un professore americano, un docente che sta trascorrendo un anno sabbatico in Italia. Che cosa hanno a che vedere i due delitti fra loro? Non ve lo posso dire. Vi posso solo dire che le indagini a un certo punto si concentrano, almeno per quanto riguarda la morte di Victor, sulla moglie di Victor stesso e sulla sorella della moglie, che si chiama Scarlett, una ragazza un po' particolare. E qui arriviamo ad un legame possibile che immagino tu hai preso anche dall'attualità, insomma dalla cronaca, nel senso che nel momento in cui le due donne americane vengono arrestate, poi vedremo, anzi non lo diremo, se per giusta causa o meno, si crea un po' una frizione anche diplomatica fra Italia e Stati Uniti, e questo è quello che ci ha ricordato un po' il caso di Amanda Knox. Ed è lì che ti sei fatto ispirare? Sì, diciamo che in generale gli americani non amano il fatto che si investighi su cittadini americani al di fuori della loro giustizia. Comunque, no? Hanno questo sano principio per cui, secondo loro, gli americani non sono toccabili fuori dalla loro patria, e questo, vabbè, lo sappiamo. Diciamo che Scarlett, che ha 20 anni nel momento in cui viene indagata, è una studentessa americana che vive in Italia. E le modalità di indagine condotte da Michele Balistrieri io le ho riprodotte da quelli che sono i documenti noti sulle modalità di interrogatorio, quindi prima dell'arresto, con cui si è proceduto su questo caso a Perugia. Non è stata un'ispirazione. Era una parte del libro riguarda come va gestita l'investigazione, mm-hmm, per portare poi alla giustizia, e come non va gestita l'investigazione per portare alla giustizia. Io credo che purtroppo il caso di Perugia, per una serie di motivi, è stato gestito in un certo modo, possiamo dire dei fatti, molti dei verbali di interrogatorio sono stati processualmente non utilizzabili, proprio perché le modalità con cui erano state condotte gli interrogatori non erano corrette dal punto di vista della giustizia italiana. E quindi non sono stati utilizzati. Ecco, Balistrieri fa lo stesso errore, lui lo fa per pregiudizio nei confronti delle donne, mm-hmm, per cui è portato immediatamente a pensare questa è l'assassina, e di conseguenza lui non cerca di capire chi è l'assassino, cerca di capire le prove per incastrare quella persona. L'esito è disastroso, provoca una tensione nei rapporti diplomatici tra l'Italia e gli Stati Uniti. Nel libro e nella realtà. E nella realtà. E dopodiché le due cose si separano perché ovviamente sono due storie diverse. C'è sempre un sottofondo poi di, come dire, di analisi della corruzione romana, diciamo, di quella che ormai lo sappiamo, l'inchiesta Roma Capitale è stata ormai anticipata, credo, dalla maggior parte dei noiristi e giallisti italiani. Anche in questo romanzo c'è per esempio il personaggio del sordomuto, che è un malavitoso romano. Si vedono comunque lo sfondo della corruzione nella capitale e così via. Come mai c'è sempre questo sfondo? Perché purtroppo io ambiento i miei libri a Roma, e questa parte fa parte di Roma in modo assolutamente inscindibile. Nel senso che Roma, lo dice bene il sordomuto, che è questo personaggio terribile all'inizio del libro, quando lo dice: ci devi essere nato dentro questa cloaca, dove c'è una commistione continua tra chi va nei circoli bellissimi sul Tevere e chi va nelle bische clandestine, dove i soldi passano dall'uno all'altro. Questa in qualche modo è Roma, e quindi per chi scrive su Roma, a meno che non si voglia inventare una cosa completamente diversa, fa parte della realtà. Quando io avevo iniziato a scrivere La moglie perfetta col personaggio del sordomuto e gli altri suoi amichetti, diciamo, nei loro dialoghi, pensavo di aver messo delle cose terribili. Quando poi sono uscite le trascrizioni delle intercettazioni reali, ho scoperto che era molto peggio la realtà rispetto a quella che avevo scritto, per cui li ho dovuti peggiorare ancora per superare la realtà. Ma Roberto Costantini, oltre a fare il giallista, possiamo dire cosa fa nella vita? Ah, sì, io faccio un mestiere bellissimo che è quello di lavorare con i ragazzi. Lavoro dentro l'università, lavorare con i ragazzi è una cosa straordinaria, perché tra l'altro è, per una persona che ha appena superato i 60 anni, comunque fonte di grandissime idee. Ah sì, danno tante ispirazioni. Sì, sì, assolutamente. Docente di Business Administration, giusto? Sì, io diciamo lavoro alla LUISS a Roma, sia sulla parte di orientamento, quindi di attività con i licei, sia come insegnamento all'interno del Master in Business Administration sulla parte di leadership e negoziazione. E com'è che un giorno ti è venuto di scrivere, non così dei romanzi, dei gialli, con tutta una struttura ben precisa, appunto la trilogia del male, che ha avuto un successo internazionale, cioè mica pizza e fichi, mi verrebbe da dire. Ma io sono nato e cresciuto in Libia. La Libia, Tripoli, era un posto molto tranquillo dove c'era tantissimo tempo per pensare. Se oggi penso ai miei figli, che sono compressi tra 10.000 attività, ecco, io ero proprio come Celentano in azzurro, cioè quei pomeriggi interminabili che avevo molto tempo per pensare e per leggere, e quindi leggevo gialli da, cioè io mi avevo letto tutti i libri di Agatha Christie quando già avevo 16 anni, quindi ho sempre avuto questa grande passione. Poi all'università ho fatto ingegneria, quindi poi sono andato a vivere in un mondo diverso dal punto di vista lavorativo per tantissimi anni, però la passione mi è sempre rimasta, la passione sia di leggere che di scrivere, perché credo che siano due cose collegate. E durante questi miei viaggi interminabili in giro per il mondo ho iniziato a scrivere la trilogia del male, che a un certo punto era completa. Bisognava pubblicarla. Esatto. E allora, ingegneri di tutta Italia, datevi ai gialli, scrivete ai gialli, non mandateli a me perché non sono una editor, non li saprei valutare, insomma, perché già me ne mandano fin troppi di manoscritti. Grazie Roberto Costantini per essere stato con noi. Ricordiamo il libro che ora è in libreria, è La moglie perfetta, pubblicata da Marsilio. Come da Marsilio è stata pubblicata tutta la trilogia del male, che la reso famoso un po' in tutto il mondo. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Gianmarco Ferronato. Trovate queste e le altre puntate su radio24.it. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.